con Emanuela Moroni, co-regista del documentario Amaranto, a Roma, allo spazio Apollo 11, lunedì 8 aprile 2019. Emanuela, ben trovata. Buongiorno, grazie. Ci racconti di questo lavoro? È un documentario, diciamo, che ha avuto una storia lunga per la realizzazione. Abbiamo lavorato 4 anni a questo progetto, è un progetto indipendente, prodotto dal basso, ha avuto due crowdfunding per poter essere realizzato. E, è un documentario che è nato dall'esigenza di raccontare quella parte di mondo che sta cercando di fare la differenza di fronte alle emergenze ambientali e sociali che ci troviamo a vivere. Quali sono queste parti di mondo interessate? Ma le parti di mondo interessate, noi abbiamo fatto una riflessione sul problema, no? Ad oggi si parla tantissimo del problema del cambiamento climatico, come se fosse quello realmente il problema. Ma poi entrando dentro questo problema ci si rende conto che il cambiamento climatico è determinato dall'essere umano e quindi il problema probabilmente è, diciamo, il tipo di vita che conduce l'essere umano. E allora da lì siamo partiti mettendo in fila quella che potrebbe essere la vita di un essere umano, dalla nascita fino alla rinascita, andando a cercare storie capaci di raccontare uno sguardo diverso. E le storie che abbiamo trovato e raccontato nel documentario sono tutte storie, diciamo, che si collocano in Italia, però in realtà raccontano di un modo di vivere che, insomma, diciamo, non ha un confine geografico netto e definito, è una sorta di sguardo sul mondo e sulla vita. E queste storie come le avete individuate? Per individuare le storie c'è stata una lunga ricerca per cercare, insomma, di restituire quella che era un po' la nostra idea, ovvero di aprire uno sguardo e non dare una ricetta, e quindi, diciamo, anche un atteggiamento in qualche modo laico, no? Rispetto a prendere una posizione e cercare di portare avanti una scelta. E quindi ci siamo messi a studiare, a ricercare, e strada facendo abbiamo, insomma, individuato quelli che poi sono stati i nostri protagonisti. Ecco, quali sono i luoghi e quali le esperienze? Il racconto parte con la nascita, ovviamente, in realtà c'è un prologo all'inizio del documentario dove si parla di questa emergenza che viviamo e in quel caso c'è, diciamo, una sorta, l'abbiamo chiamata di geografia umana, perché inizialmente volevamo fare una mappatura del mondo, poi quando abbiamo fatto le interviste ci siamo resi conto che quei volti raccontavano di una mappatura del mondo. C'è Serge Latouche, c'è Franco Arminio, c'è Starhawk, insomma personaggi che a vario al titolo guardano a queste emergenze e postano una prospettiva nuova e danno, insomma, l'urgenza del problema. E poi da lì si parte col viaggio nella vita di un essere umano e inizia con Verena Smith, che è un'ostetrica, lei è a Firenze e racconta di un'altra modalità del vivere. E poi il viaggio prosegue e arriva a Giove, un piccolo paesino che sta in Umbria, dove incontriamo Franco Lorenzoni, che è un maestro di scuola elementare e scuola elementare pubblica. Adesso è andato in pensione da un anno, però quando abbiamo girato il documentario era ancora in servizio. E poi da lì ci spostiamo, andiamo vicino Gubbio, ad incontrare Idae Naddi, una scrittrice contadina inglese che si è trasferita in queste campagne, in una valle molto bella dove fa woofing, ma soprattutto racconta di un legame e un rapporto con il luogo molto stretto, insomma, di come si può ridiventare nativi e di come la comunità che si è creata intorno al Pratale, insomma, al luogo che lei abita, una comunità mobile di persone che vanno e vengono da tutto il mondo. E poi arriviamo a Ferrara con il co-housing San Giorgio, l'esperienza di un gruppo di persone che hanno scelto di un modo diverso di abitare, di condividere, mettendo, insomma, al centro il bene comune. E per poi andare a Castel Giozzo, dove incontriamo Flaviana Parodi, che si occupa di permacultura, una biologa, e insomma lei richiude un po' il cerchio della vita, portando quelli che sono i temi della permacultura, nel senso che, insomma, in natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma e di fatto apparteniamo tutti a uno stesso ecosistema. E siamo parte integrante di quell'ecosistema, anche noi esseri umani che a volte ci mettiamo di lato o di sopra, soprattutto. E questi, insomma, sono un po', diciamo, i luoghi e le esperienze che abbiamo incontrato in questo percorso. E il percorso del documentario adesso quale sarà? Adesso finalmente abbiamo una distribuzione su Sima Fermenti e stiamo mettendo insieme un calendario per riuscire a portarlo in tutta Italia. Ci sono stati degli appuntamenti prima con dei festival, adesso saremo lunedì 8 all'Apollo 11 e poi sabato 13 a Viterbo al Cinetocscia Village con un altro appuntamento e poi piano piano stiamo rispondendo ad alcune richieste e stiamo cercando di mettere in piedi una distribuzione. Noi nei partner abbiamo come sponsor Banca Etica, per noi insomma in realtà tutta la parte di produzione, cioè parte integrante del documentario, nel senso che abbiamo scelto sponsor, collaborazioni che si muovono non è, diciamo, su un terreno di etica e di sostenibilità, Sì. anche insomma non è solo quello che raccontiamo, ma anche come siamo arrivati a raccontarlo, che è importante. E quindi vabbè, sì, insomma, sarebbero in qualche modo parte integrante del racconto il fatto che ci sono anche questi personaggi che ci hanno sostenuti. L'idea del tutto è perché la distribuzione, la produzione, il crowdfunding, ci sono tante persone che hanno lavorato con noi e sono entrate in produzione, insomma, è un progetto partecipato da ogni punto di vista. Insomma, crediamo sia importante anche perché insomma, quello che raccontiamo è una cosa per noi seria e ci crediamo fortemente, quindi abbiamo cercato anche di tenere in piedi un discorso nella parte invisibile di produzione, quindi tutto ciò che non si vede sullo schermo esiste anche nel modo in cui il film è stato fatto. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, allora c'è la pagina Facebook di Amaranto, Amaranto Documentario, dove ci è sempre aggiornata e anche quello è un po' un diario di viaggio di questo progetto. C'è la pagina di Fermenti Distribuzione, dove vengono pubblicate le informazioni. E per Amaranto c'è anche Instagram. Diciamo, questi sono un po' i riferimenti che abbiamo per seguirci, ma sono spesso aggiornati, quindi tutte le novità e le informazioni si trovano lì. Allora, ricordiamo intanto il primo appuntamento cronologico a Roma, lo spazio Apollo 11, lunedì 8 aprile 2019 con Amaranto. Un saluto e un ringraziamento alla coregista Emanuela Moroni. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie mille, a presto.